La mia impressione è che ormai se parliamo con qualsiasi di noi, anche i nostri amici, di democrazia a rischio, si abbia un po' la sensazione di un bla bla bla, di slogan ormai vuoti, triti e ritriti. Però se invece si considerano pezzetto per pezzetto le tendenze che stiamo vivendo e le si mette insieme come i tasselli di un puzzle, il quadro è veramente allarmante, ma quello che spero di poter fare col mio report, grazie a chi lo leggerà facendolo vivere, è di mettere insieme questi tasselli, renderci conto del quadro complessivo e, insomma, dalla consapevolezza nasce anche poi la possibilità di mobilitarsi in senso democratico. Ho messo insieme una serie di temi che avevo seguito anche singolarmente. Ti faccio un esempio, gli attacchi alla libera informazione li abbiamo vissuti, in particolare la testata per cui scrivo Domani è stata tra i primi bersagliati dalla Premier, ma è una tendenza che riguarda anche l'Ungheria, la Slovacchia e alla fine anche grandi democrazie europee storiche come la Francia. Poi mi sono resa conto che anche altri aspetti che avevo affrontato, per esempio per Jacobi in America, cioè il modo in cui l'Europa aveva ignorato i lavoratori e i sindacati, questo è un altro pezzetto, un altro tassello. Insomma, mettendo insieme tutti i punti, ci si rende conto che quella che viviamo individualmente come la nostra esperienza singola, i nostri diritti negati, le maggiori difficoltà nel protestare, nel manifestare, nell'esprimere la nostra opinione, fanno parte in realtà di una tendenza europea che arriva addirittura a comprendere fantomatici pacchetti omnibus, cioè questi pacchetti di deregolamentazione selvaggia che la classe dirigente europea sta facendo passare, diciamo, nella incoscienza dei più, perché quando qualcuno ti dice pacchetto omnibus, ti fa un po' l'effetto del decreto mille proroghe, cioè chissà cosa c'è dentro, sarà qualcosa di tecnico, ce ne occuperemo un'altra volta. In realtà i pacchetti omnibus sono dei pacchetti che smantellano le nostre tutele socioambientali, i diritti digitali, persino il nostro diritto alla salute in qualche modo. Andiamo un po' nel dettaglio dei vari temi, perché appunto tu li dividi in diverse parti in questo report. La prima è proprio il tema della repressione, no? Dei codici emergenziali che vengono messi in campo sempre più. Sì, pensa Alessandro che quando ho steso il report era addirittura l'autunno, poi lo abbiamo aggiornato a metà gennaio, ho fatto in tempo a inserire il secondo decreto sicurezza, però tristemente i fatti confermano, cioè gli ulteriori sviluppi confermano la linea di analisi. Allora, quello che descrivo nel report è una deriva securitaria in cui il dissenso viene inquadrato, incorniciato come un pericolo, una minaccia all'ordine o addirittura alla nazione. Queste tendenze che noi vediamo particolarmente in Italia con quella che all'estero viene chiamata la legge anti-Gandhi, che sarebbe il decreto sicurezza 1, ma che vediamo anche in altri paesi europei, in realtà ha radici lontane. Mi ricordo che anche alla COP che si svolse a Parigi subito dopo gli attentati, la cornice della lotta al terrorismo fu utilizzata per perquisire i manifestanti ambientalisti, per esempio. Orban, insomma, simbolo delle derive autocratiche in Europa, pensate che protrae lo stato d'emergenza dal 2016. Prima la motivazione era l'invasione di migranti, che in realtà in Ungheria non c'è mai stata, poi l'argomentazione è stata il Covid, poi la guerra. Fatto sta che la cornice emergenziale in Ungheria varrà fino a maggio, quindi addirittura durante le elezioni anche. Però bisogna sfatare un mito, cioè l'idea che l'Ungheria di Orban sia il brutto anatroccolo e che poi tutti gli altri invece coltivino sinceri ideali democratici. Purtroppo, come ci dicono gli indici, per esempio penso al Civicus Monitor, che è una raccolta, una fotografia dello stato della società civile effettuata dal basso, dalla società civile stessa, ecco, l'ultimo monitor ci dice che Italia, Francia, Germania sono state downgraded, come dire, hanno perso di qualità democratica e quindi alla fine l'Ungheria non è più sola. Quindi questo è il primo campanello d'allarme. Guardate che le tendenze autocratiche non riguardano più soltanto i paesi a esplicita guida autoritaria di estrema destra, ma stanno diffondendosi anche in paesi che consideravamo di solito da tradizione democratica. Penso a vari episodi che ho raccontato su Domani nel corso degli anni, ma che si trovano anche nel report. Per esempio, l'attacco che fece il governo francese alla Ligue des droits de l'homme, cioè voglio dire, è proprio una cosa simbolica. Cioè, persino gli storici difensori dei diritti umani hanno rischiato di chiudere i battenti. Una repressione che colpisce anche il mondo del lavoro e i suoi diritti. Sì, questa è una delle facce dell'attacco alla società civile che da una parte mi preoccupa di più, dall'altra dovremmo considerare più rivelatrice. Negli ultimi anni c'è stato un attacco frontale al diritto di sciopero. Allora, chiunque di noi si ricorda la Premier Meloni dire che chi sciopera vuole fare il weekend lungo, ma al di là delle uscite di Meloni o di Salvini, qui c'è una tendenza generale, penso agli attacchi al diritto di sciopero che ci sono stati nel Regno Unito oppure in Ungheria, quindi c'è il tentativo di comprimere il diritto di mobilitarsi e questo punto ci collega poi al versante strettamente europeo del report, cioè in questa fase l'Europa decide sempre più sotto le esplicite pressioni delle grandi corporation. Pensate che prima dell'ultimo Consiglio europeo informale Ursula von der Leyen, Friedrich Merz, Emmanuel Macron hanno incontrato insomma, il summit delle corporation europee. Ursula von der Leyen fa di questo rapporto un motivo di vanto, dichiara pubblicamente che farà di tutto per accogliere e ricalcare le richieste delle corporation. Allora, quello che è fondamentale individuare, secondo me, e spero che questo report sarà uno strumento utile per tutti voi, è che i vari fenomeni che vediamo sono in realtà legati tra di loro, cioè la compressione del diritto di sciopero, la limitazione del diritto ad esprimere il dissenso e un'Europa che asseconda sempre di più i grandi interessi privati, i monopoli, gli oligopoli, quelli che in America si chiamano i broligarchi, sono due facce della stessa tendenza. Per questo la saldatura tra centrodestra ed estreme destre funziona così bene, perché questa faccia autoritaria e la faccia dei grandi interessi privati fanno parte, ahimè, dello stesso volto di un'Europa che è sempre più cupamente svolta verso l'estrema destra. Infatti, su questo appunto ti concentri anche nel report, c'è una sorta di normalizzazione dell'estrema destra. Sì, nel report trovate svariati aspetti. Da una parte quello che succede a livello nazionale, dall'altra a livello UE, letto insieme, veramente con spirito paneuropeo. E poi cerco di mettere insieme anche due altri livelli. Il livello delle scelte politiche, della governance europea, quelle cose che sembrano noiosissime come i processi per fare o in questo caso disfare le leggi in Europa, e quegli schemi narrativi, quelle cornici che consentono alle destre di demonizzare la società civile. Allora, io è dal 2021-2022 che denuncio il fatto che non solo si stesse smantellando il cordone sanitario verso l'estrema destra, ma che lo si stesse proiettando verso la sinistra, dove tra l'altro l'espressione sinistra viene sempre più usata e abusata. In questo Trump è maestro. Basta che un giornalista faccia una domanda critica, viene accusato di essere attivista di sinistra. Basta che qualcuno esprima dissenso e viene definito pericoloso personaggio di sinistra. Quindi il paradosso è che non solo viene legittimata, normalizzata l'estrema destra, ma la giacca del brutto e cattivo viene lanciata addosso alla sinistra, laddove per sinistra si includono, anche impropriamente, semplicemente movimenti, forme di attivismo, espressioni di dissenso, per cui semplicemente chi critica garbatamente, democraticamente, viene tacciato di essere di sinistra. Allora, questa costruzione del nemico è quella usata e abusata dalle destre, formula Finkelstein, che fece vincere Orban alle elezioni del 2010. La formula Finkelstein viene inventata da questo stratega repubblicano Finkelstein, al quale fece ricorso anche Netanyahu, che poi lo consigliò a Orban, e che consiste nella campagna negativa, nella costruzione del nemico, per cui il nemico diventano le minoranze, i migranti, la comunità LGBT, insomma una serie di categorie, finché la stessa espressione di dissenso democratico viene di fatto presentata come un nemico. Allora, questa è una strategia discorsiva e narrativa che viene utilizzata non più solo dalle estreme destre, ma anche dal centrodestra come i popolari europei, i cristiano-democratici, anche il mondo macroniano fa ricorso a questo schema. E quindi si arriva a demonizzare l'ONG e la società civile anche perché perché si utilizzano degli schemi propagandistici e narrativi comuni. È importante conoscerli per poterli demistificare. Ovviamente tu denunci queste tendenze, però in un certo senso indichi anche un po' le soluzioni, cioè serve una risposta transnazionale. Allora, quello che io penso è che di solito nei report si fanno delle scalette per punti con delle soluzioni tecniche. Io penso che quello che ci manca in Europa sia innanzitutto la volontà politica di costruire un'alternativa. E a questo, ahimè, non posso opporre io una soluzione individualmente, cioè detta anche un po' fuori dai denti, se siamo arrivati fino a questo punto ci sono delle responsabilità ad ampio raggio. È da tempo che speriamo nella costruzione di un'alternativa democratica robusta e invece si fa fatica ad organizzarla anche perché probabilmente manca l'intenzione. Questo, voglio dire, è un tema così politicamente profondo che non può essere un report a darvi soluzione, però è importante dirlo. C'è o no la volontà politica di opporsi davvero a queste tendenze autoritarie? Questa è una domanda più che una risposta. Venendo alle risposte, penso che si debba organizzare una reazione democratica. E bisogna farlo uniti in due modi. Il primo è costruire un sincero dibattito europeo, paneuropeo, e quindi questo report serve proprio a mettere insieme le esperienze individuali o nazionali in un quadro di dialogo, così che si possa anche rendersi conto che in fin dei conti la società civile di svariati paesi europei sta condividendo la stessa esperienza, quindi che il dibattito diventi europeo. Il secondo punto è mettere insieme competenze e sfaccettature diverse. Il mondo dell'accademia, il mondo del giornalismo, le ONG, la società civile dovrebbero davvero confrontarsi perché mentre esiste un copione illiberale, transnazionale che viene passato e scambiato dai vari think tank orbaniani, meloniani, trampiani, manca tuttora un playbook democratico, cioè un quadro interpretativo e di reazione comune alle derive in corso. E quindi la speranza, anzitutto come cittadini, oltre che come autrice, è che si possa veramente costruire una rete democratica, una rete anche di protezione della nostra Europa e delle nostre democrazie, perché insomma si parla tanto e si continua a parlare di europeismo, ma nel frattempo l'europeismo sta continuamente cambiando connotati, l'Europa sta diventando l'Europa appunto delle corporation e sta perdendo di vista i suoi valori fondanti, che sono i valori civili e democratici.